Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Heart and mind, feelings and thoughts. This is what a man is made of. Wrong. We are what we do. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Ultima puntata stagionale, quella che va in onda oggi, stagione che vogliamo chiudere in grande stile con una trasmissione speciale dalla capitale mondiale dell'espatrio italiano, Londra. A introdurre questa mezz'ora il trailer del film Handy, progetto di Vincenzo Cosentino, filmmaker siciliano da poco rientrato dagli Stati Uniti. La storia di Handy è la storia di chi ha lasciato l'Italia per tentare fortuna all'estero, portando con sé l'avventura e la difficoltà che questo cammino comporta. Handy è una metafora che bacchetta la triste realtà del raccomandato Made in Italy, così recita la sinossi. E quanti sono i nostri expats di talento che hanno subito analoga sorte della manina protagonista del film? La frase della settimana, l'ultima della stagione, è copyright di Luigi Bobba, sottosegretario al lavoro. La legge contro esodo deve diventare uno strumento ordinario, non una tantum. I processi di andata e ritorno devono essere incoraggiati in modo strutturale e non occasionale, afferma. Per Bobba, in Italia mancare un attrattore, una politica o uno strumento che prenda sul serio lo squilibrio della bilancia del capitale umano e provi a colmarlo con percorsi che possano diventare ordinari. Vorremmo farlo, dice, con un programma finanziato attraverso il fondo delle politiche giovanili. Bobba poi ha annunciato l'intenzione di avviare la valorizzazione dei talenti italiani all'estero senza l'intenzione di tornare, che vorrebbero però dare peso alle competenze e risorse acquisite nel paese straniero, creando imprese, partnership e collaborazioni con l'Italia. Il nostro paese non li può dimenticare, chiosa. Questa è la promessa. Attendiamo risultati. E secondo la CGA di Mestre, l'Italia ha la spesa pensionistica più elevata d'Europa, il 16% del PIL, poco meno di 270 miliardi l'anno, mentre è al penultimo posto negli investimenti per istruzione, il 4% del PIL, 65 miliardi. La nostra spesa pensionistica, calcola la CGA, è quindi 4 volte superiore a quella scolastica. Nessun altro paese dell'area euro presenta uno squilibrio così evidente. Nei numeri e nelle statistiche, la scelta di campo fatta dalle classi dirigenti che si sono susseguite al timone del paese. Una scelta ovviamente squilibrata a favore dei sempre più numerosi anziani e incurante del futuro dei giovani. Approfittiamo infine per fare il punto su Garanzia Giovani, progetto che seguiamo da oltre un anno. Oltre 100.000 i giovani che hanno ricevuto un'offerta di lavoro, tirocinio, stage o formazione. Quelli presi in carico sono stati più di 350.000 sugli oltre 600.000 registrati. Molto più basse le opportunità di lavoro rese disponibili dalle aziende, 60.000 dall'inizio del progetto, 8.000 quelle tuttora attive. 7 offerte su 10 sono al nord, mentre le adesioni dei giovani si concentrano soprattutto al sud. Bene, lo abbiamo anticipato aprendo la puntata. Oggi, trasmissione speciale di Giovani Talenti, vi portiamo a Londra, dove, ne approfittiamo per un'informazione di servizio, sono ripresi proprio questo mese gli incontri di primo approdo organizzati dal consolato e rivolti ai giovani neoespatriati. Sempre a Londra, un'organizzazione di volontari italiani porta avanti da mesi un'iniziativa simile. Insieme a loro abbiamo raccolto le 3 storie che vi raccontiamo oggi e che si presentano così ai nostri microfoni. Antonio Giuliano, 29 anni, da Napoli, trasferito a Londra per migliorare esperienza professionale e lingua. Davide Papini, ho 30 anni, vengo da Feline Valdarno in provincia di Firenze, sono ricercatore in sicurezza informatica in università e sono venuto a Londra perché diciamo la ricerca qua in sicurezza è molto avanzata. Sono Claudio Binu, ho 30 anni, sono originario dalla Sardegna, lavoro qui nell'ambito del recruiting per la sanità inglese. Sono venuto qua proprio per il fatto che in Italia purtroppo non c'erano grandi prospettive. Poco conosceremo anche Alessio Forte di Benvenuto a Bordo, spiegheremo anche cos'è, perché Benvenuto a Bordo ci ospita oggi qui a Londra ed è un'iniziativa, lo anticipo, che è stata pensata per aiutare i tantissimi giovani italiani che vengono qui a cercare lavoro o opportunità in Gran Bretagna. Però prima raccontiamo le storie dei nostri ospiti, partendo con Antonio Giuliana. Tu che studi hai fatto in Italia? Io ho studiato al liceo scientifico, dopodiché ho iniziato l'università in ingegneria informatica perché la mia passione è sempre stata quella di diventare un imprenditore nell'ambito dell'informatica. Purtroppo non ho potuto terminare l'università a causa del lavoro che mi ha preso un po' troppo, quindi fortunatamente è andato bene e mi ha un po' rallentato negli studi. Che voto dai all'università italiana per quanto l'hai potuta sperimentare? Beh, l'università italiana ha un grande difetto, secondo me, è che quello che dà troppe informazioni teoriche e poco pratiche. Quindi i ragazzi che escono dall'università non sanno lavorare in un team, non sanno svolgere effettivamente il proprio lavoro. Potrebbero essere degli insegnanti, potrebbero essere loro stessi i professori universitari, per quante nozioni hanno ricevuto, ma nell'ambito aziendale sanno fare ben poco, purtroppo. Da Antonio Giuliana passiamo a Davide Papini. Allora Davide, tu che studi hai fatto in Italia? Io ho fatto ingegneria delle telecomunicazioni a Milano, al Politecnico. Poi ho fatto il dottorato in Danimarca, sono stato lì 3 anni. Ho fatto anche l'Erasmus in Danimarca mentre facevo ingegneria a Milano. E immagino che quella sia stata per te un'esperienza fondamentale anche per aprirti una strada all'estero. Sì, l'Erasmus, diciamo, mi ha aperto veramente gli occhi sulle possibilità che ci sono all'estero e su quante in realtà ci siano possibilità, diciamo, limitate in Italia per determinati motivi. Dell'università italiana cosa ne pensi? Allora, io, diciamo, lavorando in università, ho lavorato in università in Danimarca e in Inghilterra, e penso che l'università italiana sia molto buona per molti punti, perché veramente, come diceva Antonio, sì, è vero, è troppo teorica, però ci dà veramente le basi, soprattutto noi ingegneri, per affrontare qualsiasi tipo di argomento. Purtroppo manca di un lato pratico, che però, diciamo, io ho coperto andando all'estero in Erasmus, infatti ho avuto questa grande fortuna. Però con tutti i ricercatori anche italiani, io lavoro con un professore italiano qua a Londra e parliamo spesso della preparazione dei ragazzi italiani, che è molto più avanti rispetto a quelli che ci troviamo, diciamo, qua in Inghilterra e anche in altre università. Andiamo ora a raccontare la storia di studi di Claudio Obino. Tu invece cosa hai studiato in Italia? Allora, io ho una laurea in comunicazione e cooperazione internazionale. La scelta fu dettata allora soprattutto per cercare di sfruttare quello che era la questione turismo in Sardegna, tenendo sempre un occhio aperto al concetto di insegnamento, però in entrambi i casi poi si rivelò un po' un'utopia. Questa è una delle tante ragioni per cui poi ho deciso di venire qui. Che voto daresti all'università italiana? Diciamo, io mi sono trovato bene, andrei a quasi dare un 6,5, non oltre. Vedo cenni di assenso anche da Antonio e Davide. Prima di arrivare in Inghilterra con la vostra storia, o comunque con il vostro espatrio, anche in altri paesi, perché c'è anche chi è andato in altri paesi, però in Italia ci avete provato? Se sì, com'è andata? Partiamo con Antonio. Sì, assolutamente. Io in Italia avevo una società, inoltre ho avuto esperienze di startup con altri cari amici e business partner, quindi fondamentalmente andavano bene le cose, avevo un bel giro d'affari, solo che ero arrivato a un certo punto in cui mi ero reso conto che non riuscivo ad andare oltre, non riuscivo a progredire, e quindi poi mi sono chiesto, ma se provassi a fare quello che faccio qui all'estero, in particolare in Inghilterra, a Londra, cosa succederebbe? Riuscirei a migliorare dal punto di vista professionale? Riuscirei ad allargare il volume d'affari? Ed infatti è stato quello che poi mi ha portato qui. E tra poco ci arriviamo. Prima però chiedo a Davide cosa ha fatto in Italia, o comunque, insomma, prima di decidere di fare il passo ed espatriare. Beh, in realtà io non ho avuto questa possibilità perché, diciamo, dall'università ho cominciato direttamente il dottorato in Danimarca, quindi io in Italia non ho mai lavorato, ho avuto solo a che fare con l'università. E ti è mai venuta la tentazione però di tornare o di fare domanda? Ma sì, la tentazione mi è venuta, devo dire. Quando ho finito il dottorato in Danimarca ho fatto domanda a diverse parti, mi sono guardato anche in giro in Italia, però ho ricevuto subito risposta all'estero e, diciamo, le risposte arrivano più rapide all'estero, mi pare capire. Ma dall'Italia non sono arrivate le risposte, quindi è diverso, però sì, dall'estero arriva più rapide, sia negative che positive. Quindi abbiamo perso un talento. Claudio, se capisco bene, tu sei tra i nostri ospiti quello di più recente immigrazione in Gran Bretagna, quindi immagino in Italia tu comunque hai fatto delle cose o ci hai provato? Sì, io sono qua 6 mesi. La crescita qui è stata decisamente rapida. Ci ho provato in Italia, io ero una partita IVA, purtroppo lavoravo per lo Stato, nel senso che gran parte di quei pochi spiccioli che riuscivo ad accumulare finivano in tasse o in benzina per cercare di lavorare, però sì, a un certo punto mi sono accorto che era, insomma, una sorta di voto a perdere e il gioco non valeva la candela. Arriviamo al momento in cui siete arrivati qui in Gran Bretagna. Innanzitutto, diciamo, quanto tempo fa e com'è stato l'impatto con una società per certi aspetti anche molto diversa rispetto alla nostra? Partiamo con Antonio Giuliana. Sì, io sono arrivato qui circa 3 anni fa. È stata subito una bellissima impressione, perché dopo 3 giorni che ero qui ho deciso quasi per caso di pubblicare il mio curriculum su uno dei tanti portali di lavoro a Londra, e dopo appena un'ora ho iniziato a ricevere chiamate da recruiters. Un'ora di tempo ho iniziato. Sei saltato sulla sedia? Sì, no, inizialmente, siccome io sono venuto qui senza alcuna conoscenza dell'inglese, quasi, le prime telefonate non le ho risposte. un po' spaventato, che cosa dico, vedevo i numeri inglesi, poi 3 giorni qui a Londra, non avevo mai fatto alcuna esperienza all'estero precedentemente, quindi le prime telefonate non ho risposto. Poi ho detto vabbè, non sarà un errore, continuano a chiamarmi numeri diversi, altri recruiters, quindi ho iniziato a rispondere. Mi ero reso conto che erano persone interessate alle mie esperienze professionali e che erano lì per offrirmi del lavoro. È ancora così, secondo te, con la crisi? Insomma, con... Dipende molto dal settore lavorativo. Il mio settore è un settore molto particolare in cui si lavora molto bene, gli altri no, gli altri sono settori che stanno diventando anche difficili giorni d'oggi con questi volumi di immigrazione, quindi il mio non è un caso che va generalizzato. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata speciale da Londra vi raccontiamo la vicenda di Antonio Giuliana, 29enne imprenditore e sviluppatore di software, Davide Papini, 30 anni, ricercatore universitario, e Claudio Binu, 30 anni, selezionatore di risorse umane. Riprendiamo allora l'ascolto e torniamo nella capitale britannica. Giovani Talenti. Davide, quanto tempo fa sei arrivato e com'è stato l'impatto? Io sono arrivato a Londra 2 anni fa, dalla Danimarca. L'impatto è stato buono perché venivo da un paese appunto ancora più, diciamo, lontano dalla nostra tradizione. Sono arrivato per fare l'interview, diciamo, ma hanno pagato tutto loro, quindi l'impatto è stato decisamente ottimo. Cos'altro dire? Anche dal punto di vista lavorativo mi sono trovato molto bene. I ritmi di lavoro sono leggermente più alti in università inglese perché è molto più, diciamo, demanding la situazione rispetto ad altri paesi. Tra poco parleremo con te di università. Mentre Claudio, tu sei il più, tra virgolette, giovane a livello di immigrazione, quindi fai parte di questa, chiamiamolo pure, ondata che sta arrivando adesso. Com'è stato per te l'impatto? Allora, decisamente tosto. Diciamo, la mia prima esperienza da turista assiduo fu inizio nel 2006, però pianta stabile io arrivo qua nel novembre del 2014. Inizio duro per varie ragioni, però dal punto di vista lavorativo io dopo una settimana stavo lavorando. Concordo, i ritmi qua sono molto molto più duri, più tosti in generale. Torniamo ad Antonio, allora ti chiedo innanzitutto se ci puoi dire esattamente ora di cosa ti occupi e poi allargando un po' più lo sguardo, tu hai una tua società e quindi mi piacerebbe anche capire quanto è facile o difficile fare impresa qui, cioè quanto burocraticamente anche può essere semplice. Io lavoro a tempo pieno per una grande società qui in Inghilterra, una multinazionale, ma ho voluto portare avanti il mio sogno, che è quello appunto di avere una società e possibilmente anche dei collaboratori. Ho quindi aperto una società in una maniera semplicissima, online, un quarto d'ora di tempo, con £15, ricordandomi delle migliaia di euro spese in Italia per notai solo per l'apertura. Qualcosa è cambiato anche in Italia con le SRL 1 euro, però insomma ci siamo arrivati un po' dopo. Sì, quando io già ero partito, quindi forse sarei rimasto in Italia. Ma... Cosa fa la tua società? È sviluppo software. Con te Davide andiamo a concentrarci sul mondo della ricerca e quindi capire un po' innanzitutto di cosa ti occupi esattamente adesso e quanto vedi attrattivo per te il mondo della ricerca anglosassone. Io adesso specificatamente faccio ricerca in sicurezza informatica e esattamente nuove tecniche per monitorare traffico nelle reti. Diciamo che la ricerca anglosassone, ma la ricerca anche in paesi come la Danimarca, nordici, ha un'attrattiva completamente diversa dall'Italia, ma non perché la qualità della ricerca, la qualità delle persone che fanno ricerca sia maggiore, ma perché la quantità di soldi investiti e come vengono utilizzati è totalmente differente. I soldi qua vengono amministrati direttamente dalla persona che ha il titolo del fondo di ricerca, li può amministrare come vuole. Assumere persone è molto facile, è tutto molto più semplificato. Il baronato qui esiste? Il baronato qua non esiste. Esistono le lettere di raccomandazione, che in Italia, diciamo, le raccomandazioni sono diverse. Nel gergo sono di cose brutte, qua invece è una cosa positiva. Se una persona ti raccomanda solo se sa che sei bravo e sei lavorato bene per lui. Però il baronato qua non esiste e non avrebbe modo di esistere. Sistema sano sotto questo punto, esatto, di vista. E con Claudio invece, tu sei un recruiter, fai selezione per la NHS, che è il sistema sanitario qui britannico. Lo spunto è inevitabile partendo dalla tua professione. Quale onda di italiani vedi arrivare in questi mesi qui in Gran Bretagna? Allora, l'azienda per cui lavoro è un'azienda privata che ha come partner maggiore l'NHS, trattiamo anche con ospedali privati. L'ondata è incredibilmente forte. Io, per dare un numero, facciamo che 4 ospedali, i più recenti, questo mese sono venuti in Italia a fare i colloqui. quindi si sono presi la briga di venire in Italia ad assumere, ciascuno di questi ospedali si è portato a casa tra i 40 e i 60 neolaureati. Questi sono talenti che perdiamo di fatto. Decisamente. Questi sono cervelli in fuga e trovano il giusto appoggio e partono. E che tipo di laurea hanno alle spalle? Io tratto con infermieri, quindi nel mio caso laureati in infermieristica, sì. E adesso è il momento di andare un po' ad approfondire. Benvenuto a bordo un Alessio Forte, che è uno degli organizzatori. Tra l'altro grazie anche per l'ospitalità qui a Londra. Siamo all'interno del format che voi conducete ogni settimana con i giovani che vengono qui a cercare opportunità. E la prima domanda che ti faccio è: come è nato Benvenuto a bordo? Benvenuto a bordo è nato qui in chiesa dai ragazzi del gruppo giovani della Chiesa Italiana, che si sono stufati di dare risposte a fine messa la sera, domenica sera, hanno deciso di mettersi insieme, unire le forze e ottimizzare gli sforzi, mettere su un progetto che dà una marea di servizi, tra cui l'incontro del martedì sera, che è un incontro di benvenuto di tutti gli italiani che sono appena arrivati a Londra, che vuole dare informazioni su 6 temi cardine che bisogna conoscere una volta trasferiti qui a Londra. Brevissimo, sono casa, lavoro, NHS, salute, tasse, burocrazia, vita sociale e come risparmiare e non farsi truffare. Voi siete partiti a settembre. In questi pochi mesi di vita dell'iniziativa, qual è il profilo medio degli italiani che vengono qui a cercare consiglio e aiuto da voi? Inizialmente ti direi laureato con pochi sbocchi in Italia, poi il target si è evoluto, abbiamo incominciato a dare il benvenuto a famiglie, a coppie di 40-45 anni, 3 o 4 volte hanno partecipato dei bambini con il papà e la mamma, gente sulla quarantina, single che partecipa e lascia l'Italia perché è stato appena licenziato. Il profilo sta cambiando. In pochi mesi è già cambiato. Sì, io noto una differenza. All'inizio non vedevamo gente adulta e ti posso dire che l'anno nuovo, quindi con gennaio e febbraio, stiamo vedendo molta gente più adulta. Quanti italiani mediamente partecipano ogni settimana? Ogni settimana abbiamo 20 persone, di cui 5 ritornano, quindi abbiamo 15 nuovi e 5 in rotazione, perché ormai gli incontri sono strutturati in una maniera tale di dare dei servizi aggiuntivi ai ragazzi, quindi facciamo correzione curriculum e abbiamo anche degli avvocati che fanno volontariato qui e danno assistenza legale gratuita. È facile trovare lavoro adesso a Londra? Dipende dal settore. Persone qualificate hanno facilità a parlare con recruiter qualificati e possono avere delle buone offerte di lavoro se il loro inglese è almeno intermedio. Persone che non sono qualificate, che si candidano nei ristoranti a fare commesse, che non hanno il profilo l'inglese sufficiente, purtroppo fanno difficoltà a trovare lavoro e molte volte restano senza soldi e hanno difficoltà anche a tornare in Italia. C'è una regola aurea che voi date, un consiglio di base fondamentale date a tutti gli italiani che vengono qui? Il consiglio di base che diamo è: rimanete con i piedi per terra perché siete nella città giusta, dove la meritocrazia premia chi veramente ha del talento, e non siete nella città in cui puoi andare avanti solo se hai una conoscenza. Quindi se poco poco non hai alte aspettative, riesci a iniziare a lavorare, piano piano Londra ti premia. E ora la domanda finale, anzi le due domande finali che poniamo tutte le settimane ai nostri protagonisti, ai nostri ospiti qui a Giovani Talenti. Abbiamo deciso che Antonio e Davide risponderanno alla prima, che è molto semplice: come vedete l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va e cosa cambiereste per farla ripartire? Antonio. Ma sarò un po' scontato, ma per me il male peggiore è la classe politica. C'è da cambiare però anche la mentalità delle persone, perché nei settori della sanità, dell'amministrazione pubblica, se le persone svolgessero bene il proprio lavoro e se non ci fossero cose come raccomandazioni eccetera eccetera, il sistema funzionerebbe sicuramente meglio. Davide? Cosa cambierei dell'Italia? Ho imparato che il pregio è la semplificazione stando all'estero. Vedo com'è facile fare le cose, che ne so, per fare un documento, per aprire una società, basta effettivamente fare solo quei passaggi, non è necessario mettere in moto una macchina burocratica a cui l'Italia ci ha abituato, quindi probabilmente questa sarebbe la chiave che bisogna cambiare inizialmente. Quindi via sovrastrutture e burocrazia. Mentre per Claudio e Alessio l'altra domanda che poniamo ogni settimana ai nostri ospiti ed è: quale consiglio dareste a un giovane italiano che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Claudio. Allora, il mio consiglio innanzitutto è partire con l'idea che Eldorado non esiste. Soprattutto il fatto che ciascuno scrive la propria storia. Il mio consiglio è sostanzialmente di partire con l'idea che qui ci sono tante opportunità, c'è modo di crescere, però ognuno appunto scrive la propria storia. E Alessio? Il consiglio è di aprire il vostro cassetto se avete un sogno nel cassetto, e se l'Italia non vi dà la chiave per aprire quel sogno, io vi consiglio vivamente di pensarci su, considerando che l'essere non è sempre la soluzione più facile, ma a volte, considerando la situazione del nostro paese adesso, può premiare sulla lunga distanza. E per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti, la stringa del mese è Piani di Vita, dibattetela in 140 caratteri. E oggi vogliamo provocarvi un po' nello spazio internettivo. Ascoltate questa dichiarazione. In questo paese abbiamo costruito per molti anni una logica che era quella del lavoro precario come lavoro che costava di meno, spettacolare. Ma bisogna rovesciarla questa logica, bisogna produrre una situazione per cui il contratto a tempo indeterminato costa di meno del contratto precario. E poi c'è anche una regolazione sufficientemente flessibile che non è, tra virgolette, vissuta come un obbligo per tutta la vita, forse mettendo insieme regole nuove ed economicità produrremo l'esito che stiamo producendo di avere qualche 100.000 giovani che anziché avere dei contratti precari ha dei contratti stabili. Il ministro del lavoro Poletti ha recentemente invitato i giovani a non sentirsi delusi dalla riforma del mercato del lavoro. E voi che ne pensate? Siete delusi, indifferenti o soddisfatti? Come ha cambiato, se l'ha cambiata, la vostra vita il Jobs Act? Vogliamo sapere la vostra. Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, l'ultima della stagione, e come ogni fine giugno vi salutiamo con una hit estiva, Outside, Calvin Harris featuring Ellie Goulding, titolo che traduciamo in un invito a tutti voi a uscire ed esplorare nei prossimi mesi tutto quanto c'è fuori dalla penisola. Prendete, partite e se vi va, tornate, arricchiti e pronti a cambiare il nostro e il vostro paese. Approfitto per ricordarvi che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Da sabato prossimo e fino a metà settembre non ci lasciate, tornano le storie più belle di Giovani Talenti in formato doppio, due alla settimana. Noi invece riprendiamo live il 19 settembre con nuove storie e spunti di riflessione. Per non sbagliare però cominciate già a sintonizzare le vostre radio e i vostri PC per il primo appuntamento sabato 4 luglio sempre alle 13.30 con la prima puntata di Giovani Talenti Estate. Un saluto e un augurio di una straordinaria estate da Sergio Nava.